sei chiudo troppo come bracciato. Da già sfruttato però si mai tornato. Ho solo cose ma ne siamo fatti in ghiaccio. E non c'è scarfo. E a noi c'è scuola. Tu sei una pistola sempre carica e pronta. Tu si fosse mare fossa forse è l'onda. Tu sei un palazzo cago solo fa l'ombra. Tu sto facendo che si carano a fondo. Ti ci dedicato tutto in fase lunare. Perché è l'unica cosa che ci rende distante. Noi cerchiamo solamente bene o male. Perché ci piace così. Tu vedi dopo che mi accendo. Tu sei la finestra di nostra scena. E si chiede la lettera da tutti i giorni aspetto. Essere noi è complicato. Prima fosse romagnitudo. Quando mi abbraccio sono al sicuro. Perché e se giove non fa niente. Mi si m'ha abituato. E se torno male tempo. Tu si l'arco balena. Se non rimane a disfastidio lo fa. Trovo un modo per tornare ad avuto la rete. Soporta como dice la Biblia. Mientras tú y yo, tú una conexión diferente. Si mañana me muero, quiero que me recuerde. Tú vas a ser mía siempre hasta después.